il rischio è che si sia affermato il principio che non è ammesso il dubbio o che non sono ammessi i margini di incertezza in una valutazione scientifica, in una previsione, soprattutto perché lì stiamo parlando di previsioni. Io credo che si debba restituire ad ogni componente della vita sociale il suo ruolo, e il ruolo della scienza non è quello della politica e non è neanche quello dell'amministrazione. Probabilmente c'è un po' di confusione di ruoli. Non crede che almeno in una fase storica anche gli scienziati si siano arrogati forse ruoli che non erano loro? Questo può essere, questo può capitare. Sostanzialmente questo avviene sempre quando le istituzioni non sono credibili. Gli scienziati devono dare le loro valutazioni, devono fare le loro previsioni, devono dare i loro scenari, e poi è la politica che deve assumere la decisione. Misure cautelative che a volte possono essere esagerate, altre volte invece sono utili per prevenire poi danni.